Capitolo 16. Pronuncia S fricativa alveolare sorda, S fricativa alveolare sonora. Esercizio 1. Ascolta le coppie di frasi facendo attenzione alla pronuncia della S sorda e della S sonora. 1. Oggi splende il sole. Amo il mio paese. 2. Il sorgere del sole è uno spettacolo straordinario. La presenza di un famoso filosofo è essenziale. 3. Ho visto una splendida sfilata. È un episodio da portare come esempio. 4. Ho fatto la spesa al supermercato. Ho fatto una bella visita al museo. 5. Sarò in vacanza durante il mese di settembre. È l'ennesima volta che racconta questo caso. 6. Nella sua borsa ci sono moltissime cose. È una poesia piena di fantasia. 7. Parla un inglese curioso. Giuseppe fa raramente uso della macchina. 8. Se è possibile, pago la tassa di iscrizione. Il battesimo si svolgerà nella chiesa principale.